ascoltando Lo Sbaglio, Dottor Dax. Versione? Quaglio Tanz. Preciso. Non so più qual è il meglio, se non si scioglie se non... Tutta apparenza, solo un abbaglio. Non c'è canzone senza uno sbaglio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Lento, più lento. Un piccolo paese fuori dal mondo. Marzo 2006, ore 22:30 circa. Discoteca Ultima Impero. Via Autostrada 1, Magliano Alti, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io. Luca Nois, che è lui. E Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì. Di venerdì. le due O. Stai a capire? Sì, sì, ho capito. M. Ascoltando, fratello. L'attimo. Industria sonica. Preciso. Yeah. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Bambino, bambino, bambino, bambino. He's coming, no, he's coming, no, he's coming, no. He's coming, no, he's coming, no, he's coming, no. He's no, coming, he's coming, no, he's coming, no. He's coming, no, he's coming, no, he's coming, no. It's bad. He's no, coming, he's coming, no, he's no. It's bad. He's coming, no, he's coming, no, he's coming, no. It's bad. He's no. No, it's coming, no, it's bad. Stai ascoltando. Tira e molla, la tana del suono. Thank you. Paper material, I'm gonna show the ones my blue with you, my nose. questa qua è proprio forte, forte, molto forte questa qua. Dimmi un po' di chi è. La tana del suono. Dito. Fratello, di chi è questa canzone qua? Love Transistor. Titolo? Wherever. Preciso. So many miles I travel all around the world, and I didn't know anything about you. Anziano ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è. Want to be abused.